Napoli è mille colore. Napoli è mille paure. Napoli è voce e creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non sei sola. Napoli è un sole amare, Napoli è adore mare, Napoli è una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuna aspetta sciorta. Napoli è una camminata, rende vita mezza lata. Napoli è tutto un sogno, e a sabato tutto mondo, ma non sa Napoli. Napoli è mille colore, mille paure, Napoli è un sole amare, Napoli è addore mare, Napoli è una carta sporca, e nessuno sa importa, Napoli è una camminata, Napoli è tutto un sogno, e ha salvato tutto il mondo. Napoli è mille.